Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. I quattro domestici, Planchet, Grimaud, Mousqueton e Bazin, si presentarono e ricevettero gli ordini precisi, chiari e severi di Athos. Sarebbero partiti l'indomani, allo spuntare del giorno, per recarsi ad Armentières, ognuno per una via diversa. Planchet, il più intelligente dei quattro, doveva seguire quella che aveva imboccato la carrozza scomparsa. Su quella carrozza, scortata dal domestico di Rochefort, lo ricordiamo, avevano sparato i quattro moschettieri. Athos cominciò col mettere in moto i domestici perché dei servi che chiedono informazioni suscitano nei passanti minor diffidenza che non i loro padroni e destano maggior simpatia in coloro a cui si rivolgono. Milady poi conosceva i padroni, ma non conosceva i domestici, e invece i servitori conoscevano benissimo Milady. Tutti e quattro dovevano trovarsi riuniti l'indomani in un luogo prestabilito alle 11. In caso avessero scoperto il nascondiglio di Milady, tre sarebbero rimasti di guardia, il quarto sarebbe tornato a Béthune ad avvertire Athos e a servire da guida ai quattro amici. Prese queste disposizioni, i servitori a loro volta si ritirarono. Athos allora si alzò dalla seggiola, cinse la spada, si avvolse nel mantello e uscì dalla locanda. Erano circa le 10. Alle 10 di sera, si sa, in provincia le strade sono poco frequentate. Athos, però, cercava visibilmente qualcuno a cui poter rivolgere una domanda. Incontrò finalmente un passante ritardatario, gli si accostò, gli disse alcune parole e l'uomo, così interpellato, indietreggiò atterrito, tuttavia rispose alle parole del moschettiere con un'indicazione. Athos camminò nella direzione indicatagli e raggiunse il sobborgo situato all'estremo della città, opposto a quello donde erano entrati lui e i compagni. Lì parve di nuovo preoccupato e perplesso e si fermò. Per fortuna passò un mendicante che gli si accostò chiedendogli l'elemosina. Athos gli offrì uno scudo perché lo accompagnasse a destinazione. Il mendicante esitò un istante, ma alla vista della moneta d'argento che brillava nel buio, si decise e precedette Athos. Giunto all'angolo di una strada, dimostrò di lontano una casetta isolata, solitaria, triste. Athos vi si avvicinò mentre il mendicante, ricevuta la sua mercede, si allontanava a gambe levate. Athos fece il giro dell'edificio prima di individuare la porta della casa che era tutta dipinta di rosso. Nessun lume trapelava dalle fessure delle imposte, nessun rumore poteva far supporre che la casa fosse abitata. Era tetra e muta come una tomba. Tre volte Athos bussò senza che nessuno gli rispondesse, tuttavia al terzo colpo dall'interno si avvicinarono dei passi. Infine la porta si dischiuse e un uomo alto e dal colorito pallido, con gli occhi e i capelli neri, comparve. Athos scambiò con lui qualche parola a bassa voce, poi l'uomo alto accennò al moschettiere che poteva entrare, questi approfittò subito del permesso e la porta si richiuse alle spalle. L'uomo che Athos era venuto a cercare così lontano e aveva trovato con tanta fatica lo fece entrare nel suo laboratorio, dove era intento a fissare con fili di ferro le ossa di uno scheletro che tintinnavano urtandosi fra loro. Il corpo era già ricomposto per intero. Soltanto la testa era posata su un tavolo. Tutto il resto dell'arredamento indicava che l'abitatore di quella casa si occupava di scienze naturali. C'erano boccali pieni di serpenti, con cartellini che ne indicavano la specie. Lucertole disseccate splendevano come smeraldi incastonati in ampie cornici di legno nero. Inoltre fasci di erbe selvatiche odorifere e certo dotate di virtù ignote al volgo erano appese al soffitto e penzolavano agli angoli della stanza. Athos spiegò il motivo della visita e il servizio che esigeva da lui, ma non appena ebbe esposto la richiesta, lo sconosciuto che era rimasto in piedi davanti al moschettiere indietreggiò atterrito e rifiutò. Allora Athos trasse di tasca un foglio sul quale erano tracciate due sole righe, accompagnate da una firma e da un sigillo, e lo porse all'uomo che con troppa premura aveva manifestato quell'avversione. Non appena ebbe scorso quelle righe, veduta la firma e riconosciuto il sigillo, l'uomo alto si inchinò a significare che non aveva più obiezioni e che era disposto ad obbedire. All'ora indicata, Lord Winter e i quattro amici si recarono al convento. Le campane suonavano a distesa, la cappella era aperta, la grata del coro chiusa. In mezzo al coro era esposta la salma di Madame Bonacieux, rivestita dell'abito di novizia. Alla porta della cappella, D'Artagnan sentì di nuovo venirgli meno il coraggio. Si voltò per cercare Athos, ma questi era scomparso. Fedele alla sua missione di vendetta, Athos si era fatto accompagnare nel giardino e lì, sulla sabbia, seguendo i passi leggeri della donna che aveva lasciato una traccia sanguinosa ovunque era passata, avanzò fino alla porta che dava nel bosco, se la fece aprire e si addentrò nella foresta. Allora tutti i suoi dubbi ebbero conferma. La strada dalla quale era scomparsa la carrozza girava intorno alla foresta. Athos la seguì per un tratto con gli occhi fissi a terra. Leggere macchie di sangue prodotte da una ferita che doveva essere di colui che scortava la vettura a cavallo oppure di uno degli animali segnavano il cammino. Dopo circa tre quarti di lega a 50 passi da Festubert c'era una macchia di sangue più larga. Il terreno appariva calpestato dai cavalli. Tra la foresta e quel luogo rivelatore, un po' indietro al terriccio smosso, si ritrovava la medesima orma di brevi passi che era stata individuata nel giardino. La carrozza si era fermata. In quel punto Milady era uscita dal bosco ed era salita in carrozza. Soddisfatto della scoperta che confermava tutti i suoi sospetti, Athos tornò alla locanda, dove Planchet lo aspettava impaziente. Le previsioni di Athos ebbero piena conferma. Planchet aveva seguito la strada, ma si era spinto più avanti di Athos, di modo che al villaggio di Festubert, mentre beveva in una locanda, aveva saputo, senza bisogno di fare domande, che la sera prima, alle 8:30, un uomo ferito, il quale accompagnava una signora che viaggiava in carrozza di posta, era stato costretto a fermarsi, incapace di procedere oltre. L'uomo era rimasto nel villaggio, la donna aveva cambiato i cavalli e continuato la strada. Planchet si mise in cerca del postiglione che aveva guidato la carrozza e lo ritrovò. Aveva portato la dama fino a Fromel, di lì questa era partita per Armentières. Planchet prese la scorciatoia e alle 7:00 era ad Armentières. C'era un'unica locanda, quella delle poste. Planchet vi si presentò come un domestico disoccupato in cerca di sistemazione. Dopo nemmeno 10 minuti di conversazione con il personale della locanda, aveva saputo che una donna sola era arrivata alle 23:00. Aveva preso una camera, aveva chiamato il padrone per dirgli che desiderava trattenersi qualche tempo in quei paraggi. A Planchet non occorreva saperne di più. Corse all'appuntamento, trovò i tre domestici puntuali al loro posto, li collocò di sentinella a tutte le uscite della locanda e venne da Athos. Questi stava ascoltando gli ultimi ragguagli di Planchet quando rientrarono gli amici. Tutti i volti erano cupi e contratti, perfino quello soave di Aramis. «Che dobbiamo fare?» domandò D'Artagnan. «Aspettare», rispose Athos. Alle 8:00 Athos diede l'ordine di sellare i cavalli e fece avvertire Lord Winter e gli amici che si preparassero alla spedizione. In un attimo tutti e cinque furono pronti. Ognuno ispezionò e preparò le armi. Athos scese per primo e trovò D'Artagnan già in sella, impaziente. «Pazienza», disse Athos, «manca ancora qualcuno». I quattro cavalieri si guardarono intorno meravigliati, chiedendosi vanamente chi mai potesse essere quel qualcuno che ancora mancava. In quel momento Planchet portò il cavallo di Athos e il moschettiere balzò agile in sella. «Aspettatemi», disse, «torno subito», e partì di galoppo. Un quarto d'ora dopo tornava accompagnato da un uomo mascherato e avviluppato in un ampio mantello rosso. Era una notte buia e tempestosa. Grosse nubi correvano per il cielo, velando la luce delle stelle. La luna sarebbe sorta soltanto a mezzanotte. Talvolta, al bagliore di un lampo che brillava all'orizzonte, si scorgeva la strada che si snodava bianca e solitaria. Poi, dissipatosi il lampo, tutto rientrava nell'oscurità. Più di una volta Lord de Winter, Porthos e Aramis avevano tentato di rivolgere la parola all'uomo dal mantello rosso, ma a ogni domanda che gli veniva fatta costui si inchinava tacendo. I viaggiatori avevano allora capito che se lo sconosciuto manteneva un così rigido silenzio, qualche motivo doveva esserci, e non gli avevano più rivolto la parola. Nel frattempo il temporale si era addensato, i lampi si succedevano rapidamente, il tuono cominciava a rumoreggiare, il vento, precursore della tempesta, fischiava nella pianura agitando le piume dei cavalieri. La cavalcata prese il gran trotto. Il drappello aveva appena oltrepassato Goskal e stava per arrivare alla posta allorché un uomo, al riparo sotto un albero, si staccò dal tronco con il quale era rimasto confuso nel buio e avanzò fino al centro della strada portandosi il dito alle labbra. Athos riconobbe Grimaud. «Dov'è?» chiese. Grimaud tese il braccio nella direzione della Lys. «Lontano di qui?» domandò Athos. Grimaud mostrò al padrone l'indice ripiegato. «Sola?» Grimaud accennò di sì. «Signori», disse Athos, «è sola, a una mezza lega di qui, nella direzione del fiume». «Sta bene», disse D'Artagnan. «Grimaud, guidaci». Grimaud si diresse attraverso i campi e fece da guida alla cavalcata. Dopo circa 500 passi trovarono un ruscello e lo attraversarono a guado. Al chiarore di un lampo scorsero il villaggio di Erquinem. «È là?» domandò D'Artagnan. Grimaud scosse il capo negativamente. «Silenzio, dunque!» intimò Athos. E il drappello continuò la strada. Brillò un altro lampo. Grimaud tese il braccio e al chiarore bluastro della lingua di fuoco distinsero una casetta isolata in riva al fiume, a 100 passi da un traghetto. Una finestra era illuminata. «Ci siamo», disse Athos. Smontò da cavallo e ne affidò le redini a Grimaud. Quindi avanzò verso la finestra, dopo aver fatto cenno agli altri di girare dalla parte della porta. La casetta era circondata da una siepe alta 2 o 3 piedi. Athos la scavalcò. Raggiunse la finestra priva di imposte, ma con le mezze tendine completamente tirate. Poi salì sul davanzale di pietra per poter guardare al di sopra delle tendine. Alla luce di una lampada scorse una donna, avvolta in una mantiglia di colore scuro, seduta su uno sgabello vicino a un fuoco languente. Con i gomiti appoggiati su un rozzo tavolo, teneva il capo tra le mani bianche come l'avorio. Non se ne poteva distinguere il volto, ma un sorriso sinistro sfiorò le labbra di Athos. Non c'era da sbagliare. Era proprio la donna che cercava. In quel momento un cavallo nitrì. Milady alzò la testa, vide contro il vetro la faccia pallida di Athos e lanciò un grido. Questi capì di essere stato riconosciuto. Spinse con l'inginocchio e con la mano la finestra che cedette. I vetri si ruppero. E Athos, che pareva lo spettro della vendetta, saltò nella stanza. Milady corse alla porta e l'aprì. Più pallido e ancora più minaccioso di Athos, D'Artagnan stava sulla soglia. Milady indietreggiò mandando un grido. D'Artagnan, credendo che avesse qualche via di scampo e temendo che potesse sfuggire, trasse dalla cintura una pistola, ma Athos alzò la mano. «Riponi quell'arma, D'Artagnan. Entrate, signori». Dietro D'Artagnan entrarono quindi Porthos, Aramis, Lord de Winter e l'uomo dal mantello rosso. «Che cercate?» esclamò Milady. «Cerchiamo», disse Athos, «Anne de Breuil, che si è chiamata dapprima contessa di La Fère, poi Lady de Winter, baronessa di Sheffield». «Sono io», mormorò lei al colmo del terrore. «Che volete da me?» «Vogliamo giudicarvi per i vostri delitti», disse Athos. «Sarete libera di difendervi. Giustificatevi, se potete». L'uomo dal mantello rosso si fece avanti. «Chi è costui? Chi è costui?» gridò Milady, soffocata dal terrore mentre i capelli le si scioglievano e le si rizzavano come vivi sulla testa livida. Tutti gli sguardi si volsero a quell'uomo, perché a tutti egli era ignoto, tranne ad Athos. «Ma chi siete, dunque?» esclamarono tutti i testimoni della scena. «Chiedetelo a questa donna», rispose l'uomo dal mantello rosso, «perché lei mi ha riconosciuto». «Il boia di Lilla! Il boia di Lilla!» esclamò Milady in preda a un terrore folle e aggrappandosi con le mani al muro per non cadere. Tutti si scostarono e l'uomo dal mantello rosso rimase solo, ritto in mezzo alla stanza. «Oh, grazia, grazia! Perdono!» esclamò la miserabile cadendo in ginocchio. Lo sconosciuto attese che si rifacesse silenzio. Questa donna era in passato una fanciulla bella quanto è bella oggi. Era monaca nel convento delle Benedettine di Templemar. Un giovane prete dal cuore candido e devoto officiava nella chiesa di quel convento. Ella volle sedurlo e vi riuscì. Avrebbe sedotto un santo. I voti di entrambi erano sacri, irrevocabili. Il loro legame non poteva durare a lungo senza perderli tutti e due. Ella lo persuase a lasciare insieme il paese, ma per partire, per scappare, per raggiungere un'altra parte della Francia dove avrebbero potuto vivere tranquilli perché sconosciuti, ci voleva denaro. Nell'uno all'altro ne avevano. Il prete rubò gli arredi sacri e li vendette. Ma mentre stavano per partire insieme, furono arrestati. 8 giorni dopo, lei aveva sedotto il figlio del carceriere ed era fuggita. Il giovane prete fu condannato a 10 anni di ferri e al marchio. Io ero il boia della città di Lilla, come dice questa donna. Fui costretto a bollare il colpevole. Il colpevole, signori, era mio fratello. Giurai allora che la donna che l'aveva rovinato, che era più che sua complice perché l'aveva spinto al delitto, ne avrebbe perlomeno condiviso il castigo. Credevo di sapere dove si fosse nascosta, la inseguì, la raggiunsi, la legai e le impressi lo stesso marchio che avevo impresso a mio fratello. L'indomani del mio ritorno a Lilla, questi riuscì a fuggire a sua volta. Io venni accusato di complicità e fui condannato a rimanere in carcere finché egli non si fosse costituito prigioniero. Il mio povero fratello ignorava tale condanna. Aveva raggiunto questa donna, insieme erano fuggiti nel Berry e lui là aveva ottenuto una piccola parrocchia. La donna passava per sua sorella. Il signore della terra dove si trovava la chiesa vide questa presunta sorella del curato e se ne innamorò a tal punto che le propose di sposarlo. Allora ella abbandonò l'uomo che aveva rovinato per rovinarne un altro e divenne contessa di La Fère. Tutti gli occhi si volsero verso Athos, che così difatti si chiamava, e che confermò con il capo la verità di ciò che aveva detto il boia. Allora riprese costui, pazzo, disperato, deciso a sbarazzarsi di una esistenza alla quale lei aveva tolto tutto onore e felicità, il mio povero fratello ritornò a Lille e, saputo della sentenza che mi aveva condannato in sua vece, si costituì e la sera stessa si impiccò al finestrino della cella. Quelli che mi avevano condannato, devo rendere loro giustizia, mantennero la parola. Non appena constatata l'identità del cadavere, mi venne restituita la libertà. Ecco il delitto di cui l'accuso. Ecco il motivo per cui le ho inflitto il marchio. Monsieur d'Artagnan, disse Athos, quale pena chiedete contro questa donna? La pena di morte, rispose d'Artagnan. Milord de Winter, continuò Athos, quale pena chiedete contro questa donna? La pena di morte, rispose Lord de Winter. Monsieur Porthos, Monsieur Aramis, ripigliò Athos, voi che siete i suoi giudici, a quale pena condannate questa donna? Alla pena di morte, risposero con voce sorda i due moschettieri. Milady lanciò un urlo pauroso, mosse qualche passo verso i giudici, trascinandosi sulle ginocchia. Athos tese le mani verso di lei. Anne de Breuil, contessa di La Fère, Milady de Winter, i vostri delitti hanno stancato gli uomini in terra e Dio in cielo. Se sapete qualche preghiera, ditela, perché siete condannata e fra breve morrete. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it